Un'altra cosa che volevo aggiungere è che ieri ho visto parlare molto di Daniela Carracco, detta anche la Mimo. La Mimo è stata una delle prime, degli primi shock, devo dire, di questo mese, ormai 4 settimane di rivolta del popolo cileno, perché ancora non era così alto il livello di scontro, comunque ancora non ci si rendeva conto di quanto fosse alto il livello di scontro, e un giorno è apparsa la sua foto, la foto di questo fagotto di strani vestiti appesi a una staccionata. Beh, non era uno strano fagotto, lei era Daniela Carracco, una giovane colombiana che dalla Colombia era andata a vivere in Cile, era andata a vivere in questo quartiere della periferia che poi stava diventando una comuna a parte della periferia di Santiago, dove si era unita ai compagni e alle compagne di lì, dove lavorava socialmente insieme agli altri compagni nel quartiere, e da mimo, da pagliaccio, teneva spettacoli per grandi e piccini che con la loro ironia avevano sempre un che di politico. E non è infatti un caso che all'inizio della repressione, in quei giorni di coprifuoco e militari per le strade, fosse stato visto che la portavano via. E questa è stata l'ultima immagine che il popolo, il quartiere ha avuto di Daniela. Hanno poi scoperto che quel fagotto appeso al recinto del giardino dove lei e gli altri compagni tenevano gli spettacoli, che era un po' il centro di quel luogo, era proprio lei, era Daniela, che era stata 36 ore dopo, viene ritrovata così, dopo essere stata stuprata, torturata e uccisa, viene appesa lì proprio a monito a questo quartiere che stava cominciando a scendere in piazza, come il resto della città e il resto poi del paese. Emblematico è sicuramente il livello di violenza che a un mese di distanza tranquillamente rappresenta il livello di violenza che si sta schiantando su questo popolo. Abbiamo parlato di quanto è stata la forza delle scuole femminili a scendere in piazza, di quanto le donne siano in prima linea insieme ai compagni, di quanto un avvertimento così sempre è un avvertimento alle donne che subiscono anche per essere donne il tipo di scontro, e quindi forse una volta di più. Il monito, il quartiere, gli altri cittadini di Santiago l'hanno visto proprio diretto a questa comunità, diretto al movimento, e sicuramente nei giorni dopo ci sono stati tantissimi stupri denunciati dentro le caserme, ci sono stati tantissimi casi di abusi di ragazze portate via, e insomma ci sono molte foto emblematiche anche quando ridevano in faccia allo Spago Semilicos che le portavano via, che hanno invece denunciato di essere state stordite subito dopo l'arresto per ritrovarsi poi libere in mezzo alla strada con la metà dei vestiti che avevano addosso. Queste cose bisogna raccontarle tutte, bisogna raccontarle bene, bisogna raccontare la giustizia. Io forse perché sono cresciuta molto politicamente in questa radio ho questa fobia del informazione fatta come bisogna farla, ma è importante sempre farla così, un po' cercando un po' il pelo anche fino all'ultimo delle notizie che diamo, perché intanto fa onore alle persone di cui stiamo parlando, e credo che sia importante in un mondo dove l'informazione passa attraverso di più da mezzi che non sono fatti per fare informazione e che vogliono però, credo, in maniera molto così strisciante volersi sostituire a questo, e noi probabilmente dobbiamo essere quelli con un'arma in più, con un'attenzione in più, con un occhio in più, con un'etica in più rispetto a questo. Non credo che qui nessuno abbia delle verità in più. Quello che sta succedendo oggi è che io volevo riempire quest'ora di contenuti e invece sto avendo mille difficoltà a chiamare i compagni in Cile, che chissà, dopo mezz'ora che mi hanno aspettato il telefono sono voluti scendere in piazza, o piuttosto che Marcello, che forse ha aspettato la mia telefonata e giustamente si vuole riposare dall'altra parte del mondo. Si tratta semplicemente di mettere le nostre capacità davanti, dentro a questo microfono, e cercare di dare un'informazione così pulita, veritiera, e anche spesso che sia da stimolo per tanto dibattito. Questo perché Daniela Carracco secondo me deve essere proprio uno di quei personaggi che credo che diventeranno proprio il simbolo di questa rivolta. Abbiamo visto la capacità di questi dei manifestanti del popolo cileno che si è svegliato di ricordare i personaggi delle proprie manifestazioni, il movimento studentesco, c'era il Negro Matapaco, questo cane che ha accompagnato le rivolte, ora non c'è più, c'è un altro cane, ci sono queste persone, personaggi, ancora si portano i nomi della dittatura, dei compagni e delle compagne spariti nella dittatura. Allora io credo che questo sia molto arricchente e sia anche un modo di dare una lezione di memoria, di comunicazione e di capacità di comunicare, come ci diceva Marcello l'altra volta: io salgo sull'autobus e i cileni parlano, le cilene parlano, come mai avevano fatto prima, come non facevano più. E quindi ecco, io voglio voglio anche oggi ricordare Daniela Carrasco. Ieri appunto un mese dalla sua sparizione, ci sono stati tante attrici, gruppi di pagliacci che sono tornati a scendere in piazza vestiti proprio come lei, per non volerci stare, per volerla riportare con loro nelle piazze, per non voler dimenticare il suo nome e portarla proprio in maniera emblematica. La differenza la riconosciamo da una lacrima rossa che tutti gli altri si sono messi sul viso proprio per volersi differenziare dalla sua fotografia, le poche fotografie che si trovano in giro, e perché è proprio la lacrima rossa degli altri pagliacci, degli altri mimi che mettono appunto la loro opera insieme alla rivolta, portando proprio una grandissima e bellissima memoria. Mi sembrava una cosa molto bella da ricordare oggi, ho visto che ne abbiamo parlato in tanti e tante, e quindi insomma sono contentissima di così aggiungermi a questo ricordo.